La situazione sta migliorando complessivamente la o tutto passa? No, è decisamente in miglioramento, anche se abbiamo avuto un certo numero di pazienti che sono venuti per lesioni da fuochi d'artificio, qualcuno in gravi condizioni, purtroppo qualche giovane ha perso l'occhio, molte ferite del volto e quindi molto spesso coinvolto l'occhio. Diciamo che di questi feriti di cui le ho parlato, circa il 50% sono ragazzini, sono minorenni, quindi sicuramente i ragazzini sono spesso coinvolti. Sicuramente la campagna di informazione è fortissima, le scuole, ma anche il personale degli ospedali che vanno nelle scuole a mostrare filmati, a dimostrare la pericolosità dei botti. Sicuramente comunque il numero di feriti si sta riducendo di anno in anno. Devo dire che in alcune zone della città, sia ieri sera tardi quando tornavo a casa che stamattina prima di venire al lavoro, ho visto una nettissima riduzione dei fuochi. A terra non c'era tantissimi residui che rimanevano abitualmente negli anni passati. Sicuramente si è ridotto molto quest'anno. Forse anche la crisi economica, ma io mi auguro soprattutto che stia cambiando la cultura.